l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontare l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. Questa Europa che in questi giorni, insomma, ci sta facendo abbastanza arrabbiare, ma le criticità non le nascondiamo, qui vengono raccontate, l'attualità politica ed economica viene raccontata da Radio 24 giorno per giorno. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, anche se oggi staremo anche noi sulla stretta quotidianità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, le coordinate per trovarci anche virtualmente. Euronetplus.eu è il portale che, come sempre, vi consiglio di navigare, tante inchieste, tante reportage in tante lingue diverse, anche per avere l'opinione delle diverse nazioni. E poi Twitter e Facebook, gli account Euronetplus R24, oppure il mio personale chiocciola Federico Taddia. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Si parte ogni settimana un viaggio, il viaggio con il quale iniziamo oggi è quel viaggio chiamato vita. I don't wanna see a ghost, it's a sight that I fear most, I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Invecchiare in salute, un diritto anche dei meno abbienti, questo è il cuore di Life Path, un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 6 milioni di euro nell'ambito del programma dell'Unione Europea Horizon 2020, include 15 istituzioni tra Europa, Stati Uniti e Australia, e con noi c'è il coordinatore del progetto. Diamo il benvenuto al professore Paolo Vineis, insegna epidemiologia ambientale all'Imperial College di Londra. Buongiorno Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, che un progetto ambizioso, un progetto che ha come scopo quello di studiare, ma non solo, le correlazioni che ci sono tra la qualità della vita e le condizioni economiche e sociali in cui una persona ha la fortuna di nascere e crescere. È un po' questo il lavoro? Sì, prima di tutto cerchiamo di caratterizzare diverse popolazioni in Europa per le caratteristiche che diceva lei, le variabili che diceva lei, cioè lo status socio-economico, la professione e così via. E poi seguiamo queste popolazioni nel corso del tempo per capire qual è l'esito in termini di salute, avvalendoci anche di esami di laboratorio, quindi andiamo alla ricerca di marcatori intermedi di tipo biologico che legano le condizioni di vita e lo status socio-economico con quelle che noi chiamiamo traiettorie di vita, che possono condurre a un più rapido invecchiamento oppure a un invecchiamento diciamo così ritardato. Il fuoco della ricerca è sull'invecchiamento, perché questo era il bando della Comunità Europea, riguardava le traiettorie di vita nel senso di invecchiamento in buona salute o più o meno rapido invecchiamento. Quindi noi cerchiamo di legare tutti questi aspetti, in parte sociali, in parte economici e in parte biomedici, fino a studiare le traiettorie di queste popolazioni. Quindi non è scritto tutto alla nascita, l'ambiente ovviamente incide sulla qualità della vita, se sei ricco vivi meglio, se sei povero vivi peggio, sembra quasi una banalità, c'è questa stretta correlazione? Certamente, la genetica conta fino a un certo punto, conta relativamente poco in realtà, come è emerso dalle indagini mediche condotte negli ultimi decenni. Conta di più l'ambiente, contano le condizioni sociali in un modo piuttosto forte. Ormai c'è una grande mole di dati che mostrano, a partire dal famoso studio Whitehall che è stato avviato negli anni 60, mostrano che le condizioni sociali, la classe sociale o lo status influiscono fortemente sulla speranza di vita. Secondo una parte della ricerca Whitehall, una pubblicazione proveniente dalla ricerca Whitehall che è coordinata da Michael Marmot, che è un grande esperto di classi sociali e stato di salute, secondo questa ricerca una persona appartenente alla classe sociale più bassa in Inghilterra sì. Ha un anticipo di circa 15 anni delle disabilità e di problemi di salute che una persona di classe sociale alta vedrà appunto 15 anni dopo. Questo vale per l'Inghilterra, che è un paese in cui le differenze sono particolarmente marcate, però vale sicuramente per molti altri paesi europei. Certo. Mi scusi, c'è qui con me anche Gianluca Sederi, che è il direttore di una delle istituzioni che partecipano al progetto in Italia, che si chiama UGEF, è una fondazione di Torino. Buongiorno Sederi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, appunto stavamo ascoltando il racconto di questo progetto. Oltre a fotografare una situazione, una realtà come ogni studio, l'idea è quella di trovare poi buone pratiche per poter fare sana comunicazione, sana divulgazione poi nei confronti dei cittadini? Certo, assolutamente, questo è l'obiettivo finale, per quanto questo sia un progetto di ricerca, quindi un progetto scientifico, poi l'obiettivo è di portare questi risultati alle persone che poi prendono le decisioni a livello politico. Mm-hmm. Grazie davvero, professore, buon lavoro, insomma il progetto è appena partito, la durata è di quanti anni? Di 4 anni. 4 anni, perfetto, quindi avremo sicuramente la possibilità di ritrovarci qui all'Altra Europa per seguire anche appunto la ricerca nel suo divenire. Buon lavoro e grazie. Grazie, grazie, arrivederci dopo. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Ultima chiamata Corte di Giustizia Europea. Restano solo pochi giorni per candidarsi come giuristi linguisti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo. I candidati devono essere cittadini europei, avere come madrelingua l'italiano, il francese, lo spagnolo o il bulgaro, essere in possesso di una laurea in giurisprudenza e avere una conoscenza approfondita di altre 2 lingue ufficiali dell'Unione. I giuristi linguisti assunti avranno il compito di tradurre testi giuridici nella propria lingua principale e fornire analisi giuridiche in collaborazione con altri giuristi. Tutte le informazioni per la candidatura sono nella sezione Assunzioni del sito curia.europa.eu. Attenzione, perché i curricula dovranno essere inviati entro e non oltre il 23 giugno 2015. L'Altra Europa. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato, ma è ovviamente l'attualità che ci porta a parlare del tema dei migranti e del tema dell'Europa, questa Europa che noi raccontiamo, che chiamiamo l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa della solidarietà, Europa che in questi giorni, in queste ore si sta comportando in maniera caotica, è anche difficile comprendere, è anche difficile capire. Proprio per questo abbiamo invitato qui con noi oggi per fare un attimo il punto della situazione e capire come si sta muovendo l'Europa, Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Lucio, ben ritrovato, buon Ciao, sabato. Ciao Federico, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Insomma, sono quei momenti dove tanti punti interrogativi compaiono legati all'istituzione europea. Cerchiamo di fare un po' di pulizia, però, cerchiamo di comprendere davvero cosa può fare l'Europa e qual è la situazione, qual è la fotografia reale? Beh, guarda, io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, quindi partendo dal Consiglio dei Ministri degli Affari degli Interni di martedì scorso, si comincia a qualche cosa, ricomincia a muoversi. Lo so, purtroppo, diciamo, l'immagine veicolata ai nostri cittadini è quella di un'Europa che si dilania, diciamo, fa dei proclami, poi qualcuno si tira indietro. Beh, dobbiamo innanzitutto distinguere tra le istituzioni europee e i singoli stati membri. Le istituzioni europee, la Commissione ha lanciato l'agenda per la migrazione, ha lanciato anche questo piano di ricollocazione dei migranti arrivati in Grecia ed in Italia, e alcuni passi avanti si stanno facendo. Il problema è dalla parte degli Stati membri, che poi questa proposta, questa agenda debbono mettere in pratica, e lì vediamo che gli Stati membri hanno un problema che secondo me è fondamentalmente politico, perché da una parte c'è la paura di questi populismi di destra che stanno avanzando molto, del resto vediamo anche la recentissima vicenda del muro in Ungheria, non fanno che riaccendere il fuoco su questi argomenti, e dall'altra parte c'è la crisi che non è ancora terminata, per cui ci sono anche costi economici. Però se i politici, e purtroppo lì andiamo ad un vecchio problema, cioè il politico europeo è eletto in una democrazia e ha il problema di guardare ad un orizzonte che spesso è troppo limitato, cioè l'orizzonte di un anno o due anni per farsi rieleggere non è sufficiente per vedere il fenomeno da un punto di vista di più ampio respiro, perché noi dovremmo vederlo nel medio periodo. L'Europa è un continente vecchio, troppo vecchio. Se voi viaggiate un po' fuori d'Europa, vedete tantissimi giovani, noi siamo molto vecchi, e quindi se questi migranti, cerchiamo di vederli come opportunità. Certo, il problema va gestito, i flussi vanno gestiti, dovremmo organizzarci, dovremmo metterci un pochino di soldini ciascuno di noi, ecco, e lì appunto ritrovare un po' di solidarietà dell'Europa, ma vediamolo come un'opportunità per il futuro, perché quelli che arrivano spesso sono giovani, la maggioranza sono giovani. Certo, quindi insomma la speranza può prendere il posto della paura, serve davvero il contributo di tutti e serve un'Europa con una marcia diversa. Speriamo anche, insomma, anche noi vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi Lucio, grazie per insomma avere un po' tratteggiato quella che è la situazione, speriamo davvero di cambiare marcia. Io spero che questa poi diventi anche il cammino dell'Europa, in effetti qualcosa si sta muovendo, qualcosa è cambiato, l'Europa di oggi, cioè le istituzioni europee sono un pochino meno timide che in passato, il presidente Juncker ci ha messo la faccia, come si dice, e quindi ha voglia di fare delle cose, ecco, io ci credo e dobbiamo crederci tutti, perché credo che sia l'unica soluzione, insomma, a questo che oggi è un problema e che dobbiamo far diventare un'opportunità. Grazie davvero a Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Lucio, buon sabato. Ciao Federico, ciao a tutti. In questo 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Buongiorno Carlotta, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie ancora. È arrabbiata con l'Europa in questi giorni? Ma no. No, non è il momento di essere arrabbiati, questo qui, almeno verso l'Europa, è il momento, insomma, di tenere i piedi per terra e di sapere anche interpretare tutti le varie dichiarazioni. Sicuramente sentire Orban e l'Ungheria che vogliono tirare su le reti, insomma, per centinaia di chilometri, vuol dire sentir dire un grande no a chi scappa soprattutto dalle guerre, perché sono queste le persone che poi cercano di arrivare a piedi, facendo migliaia di chilometri a piedi verso l'Ungheria e l'area Schengen. Ma sono atti di forza che in qualche modo l'agenda europea ha anche portato allo scoperto. Quindi l'agenda europea, noi siamo convinti che si continuerà a insistere per la sua implementazione. Sappiamo che non sono pochi in realtà i paesi convinti dell'opportunità di gestire bene questa fase storica così drammatica e di non subirla, perché subirla intanto andrebbe a intaccare enormemente i valori veramente più profondi della nostra stessa cultura. La cultura europea, voglio dire, l'accoglienza dei rifugiati è un principio fondamentale della nostra cultura da millenni, e poi la Seconda Guerra Mondiale ha dato un'impronta fortissima in questo senso. Che significato ha la giornata mondiale del rifugiato? Oggi, quest'anno, ha il significato di alzare una bandiera e dire attenzione, perché qui sta cambiando il paradigma con il quale interpretiamo la nostra realtà. Per la prima volta abbiamo 60 milioni di persone in fuga a causa della guerra, per la prima volta dalla seconda guerra mondiale e anche prima. E questo è un qualche cosa che forse non è molto, molto chiaro. Ci sono popolazioni che vivono questo sulla propria pelle tutti i giorni, perché l'86% dei rifugiati vive in paesi in via di sviluppo. Qui in Europa forse ci si è illusi di poter vivere in maniera isolata, e adesso che qualche centinaio di migliaia di persone arriva fino qui, sembra che stia scoppiando il disastro. In realtà il momento storico è effettivamente drammatico, ma è anche drammatica l'incapacità delle leadership mondiali di impegnarsi nei tentativi di risolvere i conflitti. Oramai non si abdica a questo aspetto, all'importanza di portare soluzioni a conflitti. Certo, migranti, clandestini, rifugiati, tanti numeri, tante parole anche usate in modo errato, le abbiamo ascoltate in questi giorni, troppe poche volte forse si è sentita la parola persona legata alle immagini che stiamo vedendo, bisogna tornare anche lì probabilmente. Sì, sono persone che in alcuni casi scappano da una guerra, scappano da una casa distrutta alla quale purtroppo per molto tempo non potranno più tornare, scappano dalla morte sicura. In altri casi sono persone che si muovono per motivi economici, si muovono a causa della povertà, alla ricerca di un lavoro che li possa dar da vivere, e questa è la situazione. I motivi per cui scappano sono diversi e i diritti che a loro vengono riconosciuti anche sono diversi, quindi le soluzioni nella gestione di questi gruppi di persone sono diverse. Una cosa sono i rifugiati, una cosa sono i migranti economici. Di tutti vanno rispettati i diritti umani, chiaramente, ma le soluzioni che bisogna portare per la gestione di questi movimenti sono profondamente diverse. Grazie davvero a Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ricordiamo il sito unhcr.it, ci sono tante campagne in atto. Oggi è una giornata importante, appunto perché è la giornata mondiale del rifugiato, quindi l'occasione per approfondire in maniera particolare queste tematiche. Voglio ricordare anche che, certo, per fronteggiare tutte queste crisi umanitarie in corso abbiamo lanciato una raccolta fondi con i privati. In questo momento abbiamo visto tante persone solidali. Se vogliono donare 2 euro con un sms al 45507 per donare una tenda e ciò che serve per sopravvivere ai rifugiati nel momento stesso in cui fuggono. Questo grazie. È l'aiuto pratico di cui c'è bisogno. Grazie a voi Carlotta, buon grazie. Lavoro. Adesso un euro post-it, la pubblicità, poi torniamo qua con l'altra Europa. Euro post-it. Children Festival. Siete interessati alle tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione dell'infanzia? O lavorate nel campo dei diritti dei bambini? Allora attenzione, perché a Mantova dal 26 al 28 giugno si terrà il primo grande evento internazionale interamente dedicato ai bambini, al loro futuro e ai loro diritti. Ogni giorno verrà trattato un tema specifico, analizzandone problematiche e sviluppi recenti in rapporto ai bambini e ai loro diritti, attraverso l'intervento di esperti in cultura, informazione, arte, letteratura, spettacolo, cibo, ricerca scientifica, economia e pedagogia. L'evento è promosso dalla Fondazione Malagutti Onlus, attiva nell'accoglienza e assistenza di bambini in difficoltà. Per saperne di più e consultare il programma, visitate il sito childrenfestival.it. L'altra Europa. Buon Buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa. Lo sapete, ci piace raccontare l'Europa anche attraverso le storie. La storia che vi vado a presentare è la storia di Ulisse, che se n'è andato dall'Italia e ora vive in Romania, vive in libertà sui Carpazi meridionali. La cosa particolare è che Ulisse è un bisonte europeo ed è il protagonista di un progetto portato avanti dalla Fondazione Rewilding Europe, dal WWF Romania e con il contributo decisivo e fondamentale del Parco Natura Viva di italiano. Scopriamo quindi chi è Ulisse, lo facciamo con il direttore del Parco Natura Viva di Bussolengo, siamo in provincia di Verona, Cesare Avesani. Ciao Cesare, benvenuto all'Altra Europa. Grazie a voi. È una storia di migrazione particolare. Intanto, sorpresi dal fatto che esiste il bisonte europeo? Cioè il bisonte siamo abituati a... Bravo, hai fatto bene a introdurre l'argomento così, perché effettivamente il bisonte europeo è molto meno conosciuto del suo coetaneo, sinonimo di bisonte americano, no? Che vive in realtà negli Stati Uniti e che la filmografia ci ha trasportato nei film tradizionali, per cui nessuno conosce il più grande mammifero del nostro continente, mentre è molto ben conosciuto questo d'oltremare, diciamo così. Il bisonte europeo è stato quasi completamente estinto, quindi l'operazione che stiamo facendo, a cui abbiamo contribuito con grande piacere, è quella di allevare e poi reintrodurre seguendoli questi esemplari che nascono in recinti accuditi e riveriti e poi vengono rilasciati nell'ultimo lembo delle grandi foreste europee. Fantastico, insomma, che è uno dei tanti progetti a cui voi come Parco Natura Viva partecipate. L'idea c'è proprio quello di accudire, allevare, crescere specie in estinzione e poi cercarle di reintrodurle nel loro habitat naturale. Progetti interessanti e progetti anche difficili, però, vero? Sì, difficili, perché ad esempio io quando ero studente di biologia, una delle domande più così consuete che si fanno nel primo esame di zoologia è quanti sono gli ambienti dove vivono gli animali, quindi oltre a terra, acqua, suolo, sottosuolo e aria naturalmente, pochi sanno che esistono gruppi di specie che vivono all'interno degli altri animali. Quindi quando noi rilasciamo un grande mammifero, il primo problema è vedere se in quell'ambiente naturale vivono parassiti che non sono mai venuti a contatto con quel sistema immunitario e che possono comprometterne la sopravvivenza. Certo. Quindi tutte scommesse che devono essere poi verificate sul campo e che non è possibile ovviamente, diciamo così, pronosticare. Devo dire che l'esperienza che ormai da 10 anni ci vede impegnati in questi progetti di reintroduzione ci ha confortato e ci ha detto che questi animali, oltre a saper fronteggiare i predatori, che era un altro aspetto insomma rilevante, sanno anche cercare il cibo sotto la neve e sanno reagire anche agli ectoparassiti e anche agli endoparassiti, quindi insomma animali davvero pronti a essere reintrodotti. Certo, e Ulisse come sta? Ulisse sta molto bene, è insieme con un branco di circa 12 esemplari in questo momento e l'idea è poterlo poi seguire. Alcuni degli animali sono dotati di questi radiocollari GPS, quindi ci consentono anche di vedere quali sono i loro spostamenti e certamente insomma i fattori di rischio ci sono in ambienti così difficili. Ecco, immaginiamoci che questa catena dei Carpazi si ritrova in una situazione geopolitica particolare, è il confine della nuova Europa e quindi è un confine dove ci sono temi di immigrazione, di traffici e quant'altro, insomma posti anche abbastanza tra virgolette pericolosi per certi versi, ma finora i bisonti sono rimasti incolumi. Devo dire che anche le popolazioni locali, nonostante si ritrovino insomma come vicino di casa un animale da 1200 kg potenzialmente un maschio adulto può arrivare a questo peso, hanno accolto bene insomma questa presenza e la vedono come anche una possibilità insomma di attrarre anche un nuovo tipo di turismo, certo, che viene a vedere i grandi mammiferi del nostro continente. www.rewildingeurope.com è il sito della fondazione per conoscere tutte le loro attività. Parconaturaviva.it invece è l'indirizzo del sito internet del parco di Bussolengo. Grazie Cesare, complimenti. Grazie. E buon lavoro, buona estate. Presto. Ciao ciao ciao. Europost-it. Tirocini all'Agenzia Spaziale Europea. Sei uno studente o un neolaureato in materie tecnico-scientifiche e desideri mettere in pratica quanto hai imparato? Hai sempre sognato di fare l'astronauta? Il tirocinio all'Agenzia Aerospaziale Europea potrebbe fare al caso tuo. La European Space Agency offre agli studenti che vogliono preparare la loro tesi su un argomento correlato e ai neolaureati che vogliono affrontare un'esperienza di un anno nel settore delle ricerche aerospaziali diversi tirocini nei suoi centri europei. Per saperne di più e identificare la base di ricerca più vicina ai tuoi interessi, consulta la sezione Careers sul sito dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.int. Andiamo a teatro ora, eccola qua l'Europa della cultura attraverso l'Erasmus. Il 24 giugno a Cagliari, A Dream for Europe, questo è il titolo dello spettacolo appartenente a un progetto che si chiama Scena Erasmus, che ha sede anche a Cagliari, e questa serata che sarà al Teatro delle Saline, che è uno dei più importanti teatri sardi. Scena Erasmus è un progetto teatrale culturale europeo. La sede centrale è all'Università di Valencia, ovviamente partecipano gli studenti Erasmus, un progetto teatrale che si è sviluppato in tantissimi paesi spagnoli e si è esteso anche in tante città europee, tra le quali appunto Cagliari. Saranno 20 gli studenti in scena, 5 italiani, 15 invece stranieri, quasi tutti partecipanti all'Erasmus, uno anche invece al servizio volontario europeo, allo SVE. Insomma, un progettone di quelli che ci piace narrare qui all'Altra Europa, e ne parliamo con Hanaëlle Marot, studentessa Erasmus francese e credo si sia anche appena laureata a Cagliari. Ciao Hanaëlle. Ciao a tutti. Sei laureata da poco, vero? Esatto, una settimana fa. Complimenti, in che cosa? Grazie, in psicologia. Psicologia. E hai avuto tempo anche di imparare la parte, fare le prove, prepararti? Sì, anche si prende molto tempo. Prende, sì. Adesso che siamo a qualche giorni del spettacolo, proviamo ogni giorno sempre. Però bello, perché siamo insieme, siamo anche amici e al fin ci divertiamo moltissimo. Immagino. Germania, Portogallo, Spagna, Polonia, Guatemala, appunto extra Europa, Spagna, Georgia, Ungheria, Francia, queste le nazionalità che saranno su quel palco. Che valore ha avuto questa esperienza all'interno dell'Erasmus? Mi sa, molto importante per noi tutti, perché ha permesso, altro che studiare un'altra città, ha permesso di incontrare persone da tutta l'Europa, anche fuori dell'Europa, e soprattutto ha permesso a noi di entrare veramente nella cultura sarda, perché ci sono anche 5 persone di Cagliari, e così abbiamo fatto un bel scambio. Mi sa che anche per gli cagliaritani forse è stato interessante di incontrare queste culture diverse. Immagino. Quanti mesi sei rimasta a Cagliari? Allora, sono arrivata a settembre e parto in 10 giorni già, purtroppo. Sono rimasta 9 mesi più o meno. Comunque, insomma, è un'esperienza che cambia un po' la vita, no? Sì. Sì. Sì, apre tantissimo la mente e poi è proprio il valore dell'Europa che raccontiamo, molto, no, quella della... molto. E poi distrugge veramente gli stereotipi, veramente, sì, perché ce lo rendiamo conto che veramente siamo molto simili. Uh-huh. E quindi insomma vengono cancellate le differenze nel fare cose insieme. E sì. Dream for Europe, cosa racconterete su quel palco? Allora, sarebbe una storia di qualche persona che hanno fuggiti dal loro paese, sì, che non convivevano, uh-huh, e hanno trovato una maniera di vivere tra loro speciale. Okay. E poi ci ritroviamo tutti insieme per avere un progetto insieme e uscire di questa società che non le piacciono e costruire una cosa bene insieme. Simbolismo dell'Europa che, uh-huh, succede adesso. Certo, insomma, questo è il sogno che racconterete. E teatrodellesaline.it, scuoladiteatrocagliari.it, i due siti di riferimento per conoscere l'intero progetto e l'intera rassegna, perché ci sono veramente tanti, tanti spettacoli. Non ti chiedo cosa ti porterà in Francia di questa esperienza sarda, ti chiedo al contrario, cosa hai lasciato, cosa lascerai lì in Sardegna di te? Il pecorino, purtroppo lo lascerò. E poi no, mi lascerò anche molto energia, perché qua ogni volta lo sento come l'ultimo momento, so che queste persone con chi ho legato tantissimo non le vedrò ogni giorno come le vedo adesso, vorrei sfruttarmi moltissimo queste persone e anche la Sardegna, che veramente è bellissima. Mm-hmm. Insomma, mi sembra veramente un inno d'amore alla Sardegna e all'Erasmus. Grazie davvero Anaele, in bocca al lupo per lo spettacolo, ricordiamo mercoledì 24 giugno, in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi compagni in scena, appunto, con A Dream for Europe. Ciao e grazie. Grazie mille. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. 1,5 milioni di occasioni europee. Cercate un lavoro in Europa? Eures, il portale gratuito dell'Unione Europea, può essere un valido alleato. Oltre 1,5 milioni di opportunità, 850 consulenti, 32 paesi diversi. Sono i numeri dello European Employment Services, la rete di cooperazione che facilita la circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo. Ad oggi sono oltre 30.000 gli italiani che lo usano abitualmente per trovare offerte di lavoro, ma anche indicazioni su come trasferirsi per brevi periodi. I principali obiettivi di Eures sono informare, orientare e consigliare i lavoratori candidati alla mobilità. Cosa aspettate? Collegatevi subito al portale ec.europa.eu/eures. L'altra Europa. L'altra Europa, e chiudiamo questa puntata in leggerezza, gioco e sport. Lo facciamo grazie a un progetto finanziato dal programma Erasmus Plus, si chiama Play Europe ed è una settimana di incontri, di attività sportive, ma non solo, perché si stanno anche divertendo tanto. Tutto ciò accade a Ravenna, ne parliamo con Sabrina Mascia, che è una delle organizzatrici dell'evento della Fondazione Flaminia. Ciao Sabrina, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, ciao. Allora, cosa sta succedendo in questi giorni a Ravenna? Ah, in questi giorni ospitiamo 30 ragazzi tra le città di Chichester e Speyer, quindi tedeschi e inglesi, più i 15 ragazzi ravennati che li accolgono, con cui trascorriamo tutta la giornata insieme. Abbiamo trascorso dal lunedì fino ad oggi tutte le giornate insieme, tra attività di workshop e attività sportive, quindi tanto divertimento ma anche tante cose da imparare, diciamo. Il cuore è contaminarsi di culture diverse, giusto? Assolutamente, l'obiettivo, guarda, dello scambio giovanile è proprio trascorrere del tempo insieme all'insegna della cittadinanza attiva europea e dello scambio culturale per la crescita condivisa come cittadini europei. Mm-hmm. Quindi è fondamentale il fatto di conoscersi, confrontarsi, e proprio per questo sono fondamentali le attività che abbiamo organizzato per loro, in cui mano a mano abbiamo raccolto tutte le loro impressioni, sensazioni e la loro voglia di essere europei. Mm-hmm. Ecco, la cittadinanza attiva, questo play non è solo gioco, non è solo game, è proprio darsi da fare. La sentono loro l'Europa, hanno voglia di diventare protagonisti di questa entità in cui sono nati di fatto, quindi la sentono loro fin dal DNA. Esatto, guarda, su questo abbiamo raccolto tante diverse opinioni, perché c'è chi nasce e cresce viaggiando, sai, con tante possibilità diverse, poi dipende molto anche da cosa ognuno di loro ha studiato e che percorso di vita ha fatto. E allora ci sono quelle persone che già parlano di Europa come è scontato, no? Noi ovviamente, io sì, vabbè, sono inglese, ma in realtà mi muovo liberamente anche a livello del mercato del lavoro, no? Nel futuro. E c'è invece chi ancora guarda di più il suo orticello, ma magari per una necessità identitaria, mm-hmm. più che per un non volersi europei, proprio perché magari c'è una relazione col territorio molto diverso da persona a persona. Però sicuramente, come hai detto tu, Play Europe, il titolo noi l'abbiamo scelto, Play Europe è poi la parte più piccola del titolo, il titolo intero è Youngsters Take Action for Europe, Pro Sport, quindi i giovani che prendono parte, lavorano per l'Europa, in questo caso attraverso lo sport, mm-hmm. ma avremmo potuto lavorare anche su altri tantissimi temi, il nucleo centrale che proprio loro si mettono in gioco e vogliono svilupparsi come a livello personale, proprio sempre di più guardando all'Europa come area comune. Certo, ti chiedo questo, che significato ha fare tutto ciò in una città come Ravenna, che comunque non è una grande città e non è neanche un paesino, è quella dimensione media che poi rappresenta in parte anche quello che è l'Italia, no? Dove ci sono tante micro realtà, cioè anche nella micro media realtà si possono fare queste iniziative? Guarda, nelle micro realtà servono queste iniziative. Ravenna sicuramente negli anni passati ha fatto uno sforzo notevole già con tutto il processo che c'è stato legato anche a Capitale Europea della Cultura, sì. Quindi c'è stata un'apertura nei confronti dell'Europa in quest'ottica. Ravenna è da anni impegnata a livello di politiche europee e l'Università di Bologna, insediata a Ravenna, ha molte relazioni internazionali sia con Erasmus, studenti, ma anche tanti scambi tra docenti, quindi Ravenna, se in un primo momento può essere vista come quella meta turistica, che quindi l'Europa la incontra solo attraverso i turisti, in realtà no, si sta aprendo tantissimo a questa visione a livello proprio culturale. Mm-hmm. In tutto ciò, questa mattina avete fatto una gara di Dragon Boat, in cosa consistevano questi? Allora, guarda, Dragon Boat è una canoa, io non sono espertissima di sport, ma è bellissimo, nel senso che è una canoa da 14 posti, sì. Tra l'altro annualmente, ogni due anni mi pare, c'è proprio il festival internazionale a Ravenna di Dragon Boat, dove squadre di tutto il mondo vengono a gareggiare, quindi è stato facilissimo per noi muoverci in questa direzione, proprio perché è un'attività sportiva conosciutissima più a livello internazionale che a livello italiano. Perfetto. Quindi sono delle canoe da 14 posti e le tre squadre, Italia, Germania e Inghilterra, si sono sfidate. Non ti dico chi ha vinto, perché le premiazioni si fanno stasera. Certo, stasera grande festa, segreto. Saluti finali, lacrime, perché poi nascono amori e amicizie, e anche i crediti formativi, perché ricordiamo che queste attività hanno anche un valore scolastico di fatto. Assolutamente, durante tutta la settimana, cioè, guarda, il lavoro che è stato fatto di sviluppo delle competenze è stato mirato rispetto alle loro competenze in entrata, quindi noi abbiamo raccolto il livello medio e durante la settimana abbiamo affrontato i temi per farli arrivare a un livello leggermente più alto. Quindi abbiamo utilizzato gli strumenti che la Commissione europea ci dà, che adesso si chiama European Framework Quality, quindi ci dà proprio 8 livelli di competenze chiave che gli studenti e le persone, diciamo i cittadini, devono avere. in media, e rispetto a questo, questo primo pomeriggio noi gli daremo i certificati e lo Youth Pass. Lo Youth Pass è assolutamente uno strumento inseribile all'interno del curriculum vitae e anche nel loro percorso universitario, perché va a riconoscere le cosiddette soft skills, certo, quindi quelle competenze trasversali che stanno diventando sempre più importanti e sono sempre richieste anche nel mercato del lavoro. Loro sono stati molto stimolati da questo, infatti, a studiare, stare attenti, partecipare attivamente a tutte le attività, proprio perché vogliono acquisire quanto più possibile, insomma. Grazie davvero Sabrina, complimenti a te e tutto il tuo team. Grazie. Fondazione Flaminia.it per tutte le informazioni su Play Europe. Ciao, buon sabato. Grazie. Salutaci i ragazzi. Tutti quanti. Assolutamente. Questo grazie va a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, e un grazie anche a tutta la squadra dell'Altra Europa, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. Alessandro Chiappini oggi si è invece divertito con i tasti in regia. L'appuntamento come sempre è sul nostro sito radio24.it, e da lì potete riascoltare la puntata, scaricare il podcast e trovare anche tutti i contributi speciali nelle pagine dell'Altra Europa, oppure chiocciola Federico Taddia se volete trovarmi sui social network. Ancora ciao, ancora buon sabato. L'Altra Europa, collaborazione con Euronet Plus.